Saj su Radio Wombat. Otvrc. I don't know. Buonasera a tutti, questo era Square Pusher con Dark Staring, tratto dall'album Ufabalum del 2012. Ufabalum. Questo sarà un po' il tema generale della serata. La serata della puntata, la puntata appunto si intitola IDM per Vombati, sempre all'interno di 8 Hertz. L'IDM cos'è? Insomma, sono le iniziali di Intelligence Dance Music, ovvero è una sorta intelligente, insomma è una sorta di modo di fare elettronica che è un po' più costruttivo, un pochino più basato su virtuosismi elettronici e musicali, quindi c'è tanta roba nell'IDM, spesso non è roba semplicissima da ascoltare, ma è comunque dance, nel senso che può avere un approccio anche fisico, ecco. Infatti anche il pezzo che abbiamo ascoltato, in realtà Square Pusher ha fatto tanti dischi da un sacco di anni, questo era appunto del 2012, per cui aveva iniziato parecchio prima. In realtà è un bassista virtuoso, infatti i suoi live sono lui contornato da strobe e da affari che gli sparano addosso le luci, e lui col basso in mano e gli effetti suona sopra le basi che compone. Square Pusher credo abbia prodotto, sia stato prodotto sempre dalla Warp Records. La Warp appunto è quasi una costante della puntata di stasera, perché è appunto un'etichetta che è nata a Sheffield nell'89 da due tipi che l'hanno vista bella, insomma, ci hanno visto degli affari d'oro, e si chiamano Steve Beckett e Rob Mitchell. Poi dopo si è spostata a Londra, se non sbaglio. Comunque erano gestori di negozi di dischi o ci lavoravano, hanno deciso, da appassionati di musica elettronica, di iniziare a tirare su un'etichetta, e questa etichetta ha praticamente sfornato una serie di artisti, anche se non mi piace molto chiamarli artisti, comunque di personaggi che hanno influenzato all'inizio in sordina il panorama proprio della musica elettronica mondiale, addirittura anche mainstream. Alcuni di loro appunto sono diventati grossi, tra cui Aphex Twin, che poi anche lui ha fondato un'etichetta che si chiama Reflex, che fa le sue cose come AFX e tante altre. E poi appunto Boards of Canada, LFO, Flying Lotus, Otecre o Autecar, come mi diceva un ragazzo che conosco, che si dovrebbe pronunciare così. Comunque, insomma, hanno creato questo, un po' questo tipo di modo di fare elettronica, o lo hanno incanalato in un'etichetta e l'hanno prodotto, le hanno fatto uscire, insomma, per essere un'etichetta indipendente ha fatto veramente una parte di storia della musica, tanto che, poi ne parleremo dopo, pure Brian Eno ha con piacere fatto uscire vari album per la Warp Records. Warp con la W come Wombat con la W. Adesso mettiamo un altro pezzo, sempre della Warp. Loro si chiamano Played, era un duo se non sbaglio, di Londra. Sono attivi dal 91. Questo pezzo però è tratto da Double Figure del 2001, che è un album un po' storico loro di riferimento, e si chiama Zala, Played. Thank you. 8 Hertz, IDM per Wombati, e Wombati quali siamo noi, e voi che ascoltate questa radio e questo programma, e vi ringrazierò sempre. E, appunto, prima si diceva degli Utecre o Autecar, e quindi ora ci ascoltiamo un pezzo loro, che anche loro sono un duo inglese della Gran Bretagna, non mi ricordo bene dove, ma piano piano vorrei anche togliere un po' di queste nozioni che magari possono risultare pallose. Comunque la cosa importante invece che c'è da dire, a parte che sono dei capisaldi dell'IDM, li abbiamo anche messi precedentemente un paio di volte, mi pare, il pezzo in questione è il pezzo di apertura di Confield del 2001, che a detta di tanti, ma anche secondo me, sembra è un po' un piccolo capolavoro, perché praticamente è un disco di mezzo che sta tra il primo periodo loro, che è un pochino più melodico per quanto sintetico, e il periodo successivo, che è completamente folle, basato parecchio sui glitch, su delle ritmiche ordinatamente confuse, e su suoni taglienti, e melodie al limite del percepibile. In questo caso i suoni sono ipermetallici, e credo che abbiano fatto un lavoro di finezza proprio nel curare proprio ogni tipo di tocco che c'è di suono, appunto, che è presente nell'album e in questo pezzo glaciale. Ovviamente sul ritmo, da spendere un attimo di parole, perché l'IDM appunto non è molto per delle ritmiche facili con la cassa a dritto, ma sono ritmiche che a volte sono difficili proprio da percepire a livello neuronale. Siccome a noi le difficoltà neuronali ci piacciono, ce l'ascoltiamo. Thank you. Hai sentito gli Autechre o Autechre, un altro gruppo sempre della Warp, molto grosso e basilare per un ascolto così un po' iniziale sull'IDM, sono i Boards of Canada. Il pezzo in questione si chiama Gyroscope da GeoGuddy del 2002, che non è il loro primo album. Tra l'altro è stato usato. La colonna è un pezzo della colonna sonora di Sinister con Film Horror perché risulta un po' parecchio malefico e quindi noi siamo un po' malefici e ce l'ascoltiamo. Vorrei dire agli ascoltatori di 8Hz che se vi piace un po' la trasmissione sul sito di Radio Wombat ci sono un po' tutti i podcast di 8Hz, come così di tutti gli altri programmi, per cui se ti interessa un po' il genere di cose che vengono messe, che vabbè per 8Hz è un po' particolare perché spazio veramente molto, la scorsa puntata era sul folk, poi abbiamo parlato anche di un po' di industrial metal. Insomma di cose di post-punk americano, dell'etichetta SST, insomma di tante cose per cui date un ascolto. Comunque, vabbè, Boards of Canada, Gyroscope. Thank you. ci sono tanti modi di fare IDM, come il pezzo che metto ora in successione, di un progetto che si chiama Seafill, che appunto ha meno tratti in comune con tutto quello che abbiamo ascoltato finora, ma è sempre molto interessante. È un pezzo del 2010 tratto dal disco omonimo Seafill. E, si chiama Dead Guitars perché ci sono campionamenti pesanti di chitarre, tutte sempre in chiave un po' sperimentale, con un basso un po' dub. Vabbè, cioè, ascoltatelo, si fa prima. Thank you. insomma, mi è venuto un po' da inserire, parlando di IDM, come in questo caso di chitarra, anche un ragazzo fiorentino, dell'area fiorentina, che come nome d'arte si chiama XO, Francesco Perissi, che è un chitarrista sperimentatore, sia sulla chitarra che con l'elettronica. Ex chitarrista di un gruppo che ormai non so se esisterà ancora, comunque si chiamano Cube, che facevano tutte altre cose. E non so, mi piace, essendo qua nell'area di Firenze, è bello anche proporre personaggi all'interno della città e dintorni. Per cui, sì, insomma, questo è XO, cioè il titolo, ve lo dico, ma sono tutte un po' sigle alfanumeriche. Comunque si chiama, il pezzo si chiama C21H30O2. Secondo me è molto interessante, e anche i lavori che ha fatto successivamente. Questo non so se è tratto da un disco in particolare, ma comunque. Intanto ascoltatevelo. Thank you. questo che avete appena ascoltato si chiama Ixo, ovvero Francesco Perissi, che è un suonatore sperimentale dell'area fiorentina. Ci fermiamo un attimo e facciamo un po' i sociali, anche se questa musica non ispira alla socialità, ma insomma è una cosa che di rito dobbiamo fare, altrimenti ci puniscono. Per cui ricordiamo i social, appunto, che il sito, che è wombat.noblogs.org, ma questo lo conoscete, se no non ci state ascoltando almeno per ora. Il Twitter è twitter.com/radiowombatfi, il Facebook che è facebook.com/radio-wombat-firenze e la mail che è postawombat@insiberia.net. La mail è molto importante perché ci potete scrivere le vostre opinioni, ma anche sul Facebook volendo, però la mail è più riservata. Comunque, opinioni, critiche e proposte, ci farebbe molto piacere sapere che i programmi che stiamo facendo vi piacciono o anche vi fanno schifo, in modo tale che si possa un po' venire incontro anche a voi, insomma, perché la radio serve anche per un po' per istruire, un po' per informare e un po' per anche proporre, appunto, roba di altri. E riguardo alle proposizioni, vi ricordo che questo sabato ci sono due belle serate a Firenze. Una è al Next Emerson, che è una serata soul time all night, ovvero, appunto, come dice il titolo, ci sarà roba soul. C'è un gruppo che si chiamano New Color più gli Emerson Setters, che metteranno i dischi. Al K100 invece, K100, c'è una serata Irish, parte dalle 20 con una cena irlandese, quindi piatti tipici irlandesi. Alle 21.30 c'è la presentazione di un libro che si chiama Bomber Renegade, e a seguire concerti con Tullamore più Hooligans Mountain. Dopo un sacco di brani prodotti dalla Warp, ci sono anche altre etichette che hanno curato l'IDM in un modo un po' diverso. E quindi mi è venuta in mente la Mil Plateau con Alec Empire, che Alec Empire è un personaggio molto importante perché è uno dei fondatori delle Italian Teenage Riot, ma prima, durante e dopo comunque continua a fare roba solista a suo nome o con altri pseudonimi, e questo è un pezzo che, appunto, è tratto dal suo primo vero LP, per quanto prima avesse fatto altre cose, che si chiama Generation Star Wars. C'è anche la copertina a tema film, che è del 94, perché ormai inizia a essere vecchiotto pure lui. Il pezzo è in tedesco, il titolo è in tedesco o a metà tedesco, si chiama Sieg Huber Die Mayday-HJ. Ce l'andiamo a ascoltare, è un po' connesso alle ultime cose, agli ultimi due anni che avete sentito. È comunque un personaggio veramente fondamentale nell'elettronica riottosa, ecco. We'll be right back. Ancora spaziando sulle derive EDM, c'è un'altra etichetta molto valida che si chiama Raster Norton, tra cui tra le varie produzioni c'è una in particolare che mi piace molto, che è di Alva Noto, e quindi si va sull'elettronica minimale, sempre comunque segnata EDM. Alva Noto, che si chiama Carsten Nicolai, che è un tedesco. Il pezzo in questione si chiama Unifac da Univrz del 2011. Anche qui c'è una cura della manipolazione sonora ai limiti dell'umano. L'ascolterete, insomma, vi farete un po' un'idea che ci sono anche delle cose minimal, che non per forza sono le cose fighette che vi tocca magari ascoltare in una serata elettronica da strapazzo, ma c'è roba ben più seria che può essere sia ascoltata nel buio della vostra camera o nel vostro salotto, insomma, adagiandovi sui vostri vizi, oppure anche proprio ballandola. Alva Noto, Unifac. Il fac ci sta sempre. Thank you. sperimentazione e isolazionismo, è un po' il pezzo che viene a seguire, di Amici della Sicilia, di più o meno zona Catania. Loro sono i Luzzu, ve li ho già fatti ascoltare una volta, sono bravissimi, sono Raffaele e Giancarlo Trimarchi. Insomma, salutandoli, gli passo un pezzo che in realtà è una traccia mai uscita, si chiama Crescente, potete trovare anche un video sul tubo, con tipo una soggettiva da un cane, una telecamera messa addosso a un cane, quindi vegani, sbizzarritevi con le vostre offese. Vabbè, e qui chiudo. E comunque cioè, li sento molto nel contesto IDM, hanno sempre fatto roba pura e cruda, e adesso ce l'ascoltiamo, Crescente di Luzzu. Sono etichette per questo pezzo. Tra le release ultime della Warp, quindi torniamo a parlare della Warp, c'è un gruppo che si chiama Oneotrix Point Never, che appunto l'ultimo lavoro che hanno fatto è molto bello, si chiama Garden of Delete del 2015, è un po' schizofrenico e sociopatico. Va tra brani corti e brani un po' più lunghi, tra pezzi di cantato tagliati, sembra quasi una composizione classica psicotica. Qui mettiamo Animals, che ha anche un video che fa anche male perché è molto stroboscopico, per cui insomma se lo guardi a tutto schermo arriva forte. Niente, ascoltatevelo. Yeah. praticamente è un brano di neoclassica elettronica, Around Oneotrix Point Never. La Warp ha fatto anche altre cose più suonate, tra le quali i Battles, il cui batterista è il batterista degli Helmet. Avevo scoperto tempo fa un disco del 2011 che si chiama Gloss Drop, è molto ironico e ha atmosfere veramente uniche, quasi tropicali. Quindi magari a qualcuno gli piacciono. Il pezzo in questione è il pezzo di apertura, si chiama Free Castle. Secondo me è geniale, come sono geniali loro, anche tutto il disco è bello, e credo che quasi tutta la produzione dei Battle sia per la Warp, che è appunto un'etichetta EDM. E ora ce l'ascoltiamo. È sempre roba un po' fuori di testa. Dal dramma ai Caraibi. Thank you.

got my back, I'll be yours. E dopo un'ennesima proposta della Warp Records, così sempre un po' fuori dalle righe, anche rientrando in generi un po' più specifici, parliamo di Brian Eno. Ovviamente non è una puntata su di lui, ma anche Brian Eno, come dicevo all'inizio, si è fatto produrre dalla Warp Records, il che significa che insomma è diventata negli anni un'etichetta super mega importante. Brian Eno, per chi non lo sapesse, è stato uno dei padri dell'ambient vero proprio, è anche un produttore, forse soprattutto produttore, appunto, oltre ai prodotti di Talking Heads, anche i Divo, gli Ultravox, John Cale, gli U2, Laurie Anderson, David Bowie, insomma nomi parecchio parecchio grossi, e ha lasciato il segno proprio con la sua impronta marcata di produzione, che spazia appunto nelle sonorità elettroniche e ambientali. Il pezzo in questione che metto si chiama Two Forms of Anger, è tratto dal primo lavoro che lui ha fatto con la Warp, e il disco si chiama Small Craft of On a Milk Sea del 2010. Il pezzo non è proprio ambient, ha un sacco di ricerche sonore contemporanee, finisce appunto anche con una batteria abbastanza incalzante e parte in stile Brian Eno, e ora ce lo stiamo ascoltando. È anche molto scuro. E concludo mettendo l'ultimo brano, che è appunto di Aphex Twin, che è insomma, uno degli esponenti massimi dell'IDM. Vi saluto, ci vediamo il prossimo giovedì. Aphex Twin, Come to Daddy, che uscì ai tempi un video di Chris Cunningham che fece scalpore perché era molto molto bello. Il pezzo è tratto da un EP di, proprio, che si chiama Come to Daddy del 97, sembra una vita fa. Buon ascolto e ci sentiamo la settimana prossima. Come to daddy, come to daddy, come to daddy.